gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Cruciani, guarda che quel Perizoma è De Parenzo, quello che ha trovato sul tappetino lì, sono sicuro. Poi da quanto ho capito lo mette pure al contrario, tanto per coprire e basta il filo, gli e basta. Ciao Crucia, ho sentito che hai preso in mano la mutandina che ti ho lasciato ieri. Era usata Cioè, Crucia, ma te rendi conto che hai sprecato 4 minuti della trasmissione per parlare di quelle cazzo di mutandine? E poi dillo sotto sotto che ce l'hai messe te, su. Tanto non te sei fila nessuna. Allora ragazzi, quanti di voi si sono commossi, leggo qui, Lampedusa, la bambina di 9 mesi, la bimba di 9 mesi commuove l'Italia, corsa per l'adozione, il medico di Fuoco a Mare, è un paesino, che l'ha soccorsa, la terrei con me. Meraviglioso, questa è l'Italia migliore. Questa è l'Italia. Però, che spesso tu non vuoi rappresentare perché ti piace di più l'Italia del Ku Klux Klan, della radio odio, no, della radio, della Liga. Non è vero. Mentre questa è l'Italia, amici. Telefonate, chiamate, testimonianze, adottare migranti. Questo è il cuore pulsante di un paese civile. Grazie. Io ho semplicemente chiesto quanti di voi si sono veramente commossi di fronte a questa bambina, questa bimba di 9 mesi. E c'è davvero questa corsa all'adozione? Certo che c'è. Cosa vuol dire? Bisogna vedere, sai, i titoli dei giornali, i titoli dei siti. Corsa all'adozione. Bisogna vedere, amico mio. Berlusconi a porta a porta, seduto sulle poltrone bianche di Vespa, dice che Renzi ha occupato la Rai. La cosa è abbastanza curiosa, no? Cioè, per carità, poi si può discutere il ruolo di Renzi nelle nomine, tutto quello che volete. Però Berlusconi, seduto a porta a porta, alla Rai, dice lei, dice Renzi ha occupato la Rai. Ah, è incredibile. L'ultima cosa che ha occupato è la Rai, e voi lo sapete bene, voi che ci siete dentro. Guai se Berlusconi avesse fatto la metà di quello che ha fatto Renzi con la Rai, sarebbe successa la rivoluzione. Questo un po' è vero, eh? Cioè, Berlusconi avesse detto, in realtà, che ne so, i talk show sono roba vecchia, i talk show non rappresentano il paese, eccetera, eccetera, comunque sarebbe stato subissato di critiche, molte di più di quanto ne abbia ricevuto Renzi. Allora, un deputato del Partito Democratico che si chiama Carbone, tuo amico peraltro, Parenzo, sostiene, beh, tu che lo se non conosci bene. Sì, lo conosco assolutamente. Sostiene che se non passa il referendum lascia la politica. La nostra risposta potrebbe essere anche quella del paese, potrebbe essere, insomma, non sti cazzi anche un po', no? Cioè, o no? Cioè, si può dire o no? Beh, ma no, si può dire certamente, ma, anche, ma lui lo dice, ma come chi tutta se ne frega? La classe dirigente però, renziana. Ma chi se ne frega però? Dopo Renzi e la Boschia, anche lui dice se non passa me ne vado, non rimango lì. Sì, ma questo è un fatto anche nuovo. Poi non è una cosa epocale. Frega, sì, ma appunto non è una cosa che dici il paese, oh, lascia la politica, no, carbone. Sai, se tutti i neodeputati renziani dicessero la stessa cosa di carbone, hai detto fatto... neodeputati renziani. E come devo dire? Neodeputati renziani, che brutta espressione. Non so. Quanto lo capisce? Quanto capisce la gente i neodeputati renziani? Sono espressioni da abolire, da iniziati della politica. Sì, effettivamente è meglio tanto da Varese, adesso che ci penso. Beh, tutta la vita. Ma stai scherzando? Lei, se il referendum non passa, lascia la politica anche lei? No, ma ti posso dire una cosa? La risposta è sì e spiego anche no, perché. Non si dà un momento. Ma aspettate, ma posso dire una cosa? Ma posso dire una cosa? La Turco è abbonata spesso alle lacrime televisive, la signora Livia Turco, non la ricordate? Livia Turco, che no, è bravissima. Ma non te la sto toccando, io ti sto dicendo semplicemente che spesso in televisione piange. Politico vero, scappa, pulito. Scappa la lacrima. In questo si caso commuove qua, perché vive la sì, politica ma per con carità, passione. La gente che fruga nel cassonetto e un pugno nello stomaco. Vabbè ragazzi miei, però i poveri esisteranno sempre, eh. Cioè non è che se io vedo un barbone che fruga nel cassonetto mi metto a piangere. Esiste la povertà ed esisterà sempre, insomma. Nostro compito dovrebbe essere quello di limitare la povertà, se bravo. Vogliamo. Sì, però non è che se vedo uno che fruga dentro un cassonetto mi metto a piangere. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Il dramma, girare per Roma e vedere la gente che cerca disperatamente di trovare qualcosa nei cassonetti è qualcosa che mi dà un pugno nello stomaco. Ma di che politica parliamo se non risolviamo questi problemi? Quindi io questo voglio. Aspetti, Tonina, gli voglio chiedere una cosa. Ma la smetta di dire un attimo. Ma la smetta di... Se la prendeva con un deputato grillino che si chiama Toninelli, che parlavano anche di stipendi, eccetera, eccetera. Senti, senti ancora la Turco sugli stipendi. Mi sono fatta un culo così, la signora Turco, Livia Turco. Vengo da una famiglia operaia. Pure io. Mi sono fatta un culo così, pure sempre? Io. Sempre? Non mi sono certo arricchita con la politica, perché non ho mai visto lo stipendio intero di un parlamentare. Perché non l'ho mai visto, perché l'ho dedicato a quello che era un grande soggetto collettivo. Ah, la barzelletta di Berlusconi, sì, c'è anche la barzelletta, mi segnalano la barzelletta, sì, sulla supposta il carciofo. Qualcuno dice una barzelletta volgare. Vabbè, ma le barzellette che hanno, come dire, allusioni sessuali, come credo questi, io non l'ho sentita, eh. Cioè, per forza, cioè, sono questa roba qua, cioè, non è che sono altre. Sai che differenza c'è tra una supposta e un carciofo? Beh, probabilmente se un carciofo nel culo vede che capisce subito. Ti fa ridere, David? Ma sì, ma può farmi ridere, detto da un ascoltatore della Zanzara, sì, certo. Ma no, vabbè, ma dai, era una cosa, magari quello non si aspettava che c'erano i telefonini, però ma va benissimo, è la cosa meno volgare che ho sentito negli ultimi giorni, guarda, no, è meno volgare. Ma dove? Qui alla Zanzara? No, no, in generale trovo volgare quello che dice la Lega sui migranti, molto più volgare quello del non le barzellette di Berlusconi. Ma che ha detto? Che hanno detto adesso? Cosa? A proposito di Lega, a proposito di Lega, sentiamo Buonanno che è ricomparso, che dà a Renzi del Mussolini. Senti. Renzi faccia come Mussolini, conquisti subito la Libia e così siamo a posto, facciamo l'avamposto lì e ritorna il nuovo impero renziano. Conoscendo il Presidente del Consiglio, vedendo tutto quello che fa, dal ritorno di Girone al fatto che va tutto bene, che l'economia funziona benissimo, quando sappiamo tutti che non è così, ho il sospetto, conoscendo il Presidente del Consiglio, che tra poco farà anche il sabato renziano, cioè ricordando ciò che fu l'epoca fascista, arriverà il sabato renziano e tutti a far ginnastica e per essere tutti a posto per il nostro Presidente del Consiglio. Salutiamo il Presidente del Consiglio Renzi. Ciao! A me questi che danno del fascista a Renzi mi fanno ridere. Ci sono tanti altri motivi per cui criticare il governo, ma questa roba qua di Renzi Mussolini è veramente una cosa patetica, diciamo la verità. È una cosa veramente patetica. Ragazzi, della serie si candida chiunque. C'è un tizio che si chiama Alviti, credo che sia Rivoluzione Cristiana in appoggio al candidato sindaco Lettieri. Sentite. Napoli, una città martoriata. La classe politica negli ultimi anni ha ridotto la città in uno stato pietoso. Il crimine dilaga per le strade. Uomini discutibili hanno affossato Napoli con la loro incapacità. La mala politica ha mangiato sulle bellezze di Napoli, manco fossero dei primi pianti. Ma ora la musica sta per cambiare. Una rivoluzione è in atto. La rivoluzione di... L'esplosione credo che sia quella del Vesuvio, tra l'altro. C'è il Vesuvio che esplode. No, ma senti, senti ancora, senti, senti. Giuseppe Alviti è la scelta giusta per garantire alla città sicurezza, garanzia, benemeranza, goliardia, semplicità. Alle prossime comunali vota il dottor Giuseppe Alviti, già presidente dell'associazione nazionale guardia particolare giurati, segretario nazionale compatto di sicurezza, cavaliere dell'ordine di Malta, ex appartenente di speciale militare, ambasciatore concetto centrale in mondo, istituto di Kramaga. Cioè, ma ti giuro è così, eh? Cioè, è così il video elettorale di questo Alviti? Cioè, che, come, come dire, non... quello che si può fare per non essere votato. Cioè, e chi te l'ha detto? Magari questo qui con sta campagna... Ah, dai, su... acchiappa, eh? Tutto il giorno viaggiare, con Cruciani alla radio da ascoltare. Anche se col traffico mi sento male, ho Parenzo da mandare a cagare. Tutto il giorno viaggiare. La Zanzara. Allora ragazzi, per chi non l'avesse sentito, ieri c'era un animalista che abbiamo chiamato a modo nostro, la quale, che è una guardia cinofila, la quale vuole sostanzialmente condannare a morte, vuole fare qualcosa di brutto a una signora che, poveraccia, ha trascinato un cane sotto la macchina e questo cane poi è morto. Per sbaglio l'ha trascinato. Ma sì, ma anche se non l'avesse trascinato per sbaglio, è la giustizia che deve condannarla. Non c'è dubbio, però anche nel caso... Ma no, ma se l'avesse, anche se non si è accorta e non si è fermata, quello che, ma è il tribunale che deve decidere se questa è omissione di soccorso oppure no. Non è che ci può essere il tribunale degli animalati. Dai, su. Questa si chiama Rita Cipriani, Teramo, guardia cinofila. Sentite che dice, perché l'anima lattia è diventata una roba incontrollabile. Sinceramente, come Diano ha scritto in tanto, trascinarla dietro una macchina con una fune. Sicuramente sarebbe... quella è la prima cosa che io le farei. Le ripeto, io sono molto... non, cioè, hai fatto una cosa, ti punisco subito. L'AICA deve essere una cosa che rimarrà eclatante. Per tutelare tutti gli altri cari, che la gente ci penserà due volte, anche a non fermarsi. Ecco. Vogliono bruciargli la macchina, questa prima cosa, e poi massacrarla di botte. Perché comunque quella signora, quel mostro, perché quello è un mostro. Ma era drogata? Era drogata, scriveva. Non ha fatto una piega. Ha detto, lei è una scostumata. Allorché in quel momento erano chiuse le sbarre. Perché la stavo trascinando sotto, lì sotto al treno la buttavo, me l'hanno tolta. Ma tanto penso che altri atti lo faranno anche prima del processo, perché mi hanno telefonato dicendo che comunque sembra che l'abbiano rintracciata, che è della zona, proprio sta lì. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ah, Allora, tredicenne rapita e stuprata, così si fidanzano gli zingari. Usanza nomade, dopo l'abuso non restano che le nozze. Minorenne violentata per 3 giorni da un ragazzo di 19 anni aiutato dai parenti. In base ai loro riti era nel giusto. Questo succede in Lombardia, ragazzi, eh? Leonardo da Roma, vai. Brutto, brutto, Leonardo, brutto. Ciao, ciao, dimmi, Lorenzo, dimmi, dimmi. Ciao Cruciani. Mo ti dico che cosa succede invece a Roma. Praticamente l'altro ieri, sì, io sono un impiantista, quindi ho un furgone attrezzato con tutte le varie attrezzature. L'altro ieri di sera il lavoro mi si è prolungato, quindi verso le 9:30 di sera mi hanno rubato tutto quello che avevo nel furgone. Che dobbiamo fare? E fino a qua tutto a posto. Cioè tutto a posto no, però i furti esisteranno sempre, come dire. No? Ma questo è niente, se sentite Cruciani, praticamente all'interno ovviamente c'erano tutti i cavi elettrici e già ci avviciniamo al problema, perché siccome è successo a Via del Serafico, praticamente sono stati rubati tutti i cavi elettrici da zingari, perché quella zona lì è piena di zingari. Dunque ci stai dicendo che sono i rom che hanno svaligiato il tuo furgone? Sì. Ma che vuoi fare? Non è che ci sono solo rom ladri, però. Cruciani, fammi parlare che ti spiego tutto. Veloce, vai. Benissimo, hanno rubato, hanno fatto il lavoro loro. Vado a fare la denuncia ai carabinieri a Viale Asia, sì, e trovo i carabinieri chiusi. Dice: no, devi venire domani mattina perché la caserma è chiusa. Di fronte a Viale Asia, sempre su Viale Asia, sì, Roma, non ci sono problemi, a Roma ci sta la caserma della polizia, la questura. Vabbè, allora? E però mancava il funzionario e non mi hanno preso la denuncia. Però amico mio, adesso per carità, va tutto bene, però che cosa ci vuoi dire? Su tutta Roma Ponte Milvio nessuno mi ha preso la denuncia. Vabbè, questo mi sembra difficile, fare, però. Ci sono carabinieri e polizia. Roma 56, quindi dai, che su, fare, Leonardo, cosa vuoi dire con questo? Non ho capito. Voglio dire questo, che polizia e carabinieri non fanno. Ma figuriamoci se erano chiusi, dai, su, uno a uno. Un commissariato lo trovavi, dai, Leonardo. No? Ma è così. Dai, io quando vado a fare una denuncia trovo sempre aperto. Dai, Fabio Treviso, dai, Fabio, dai, Leonardo, ciao. Fabio. Pronto? Dimmi. Buonasera, ciao, Bertone. Dimmi. Io vorrei parlare di prostituzione. So che sei a favore, che ho una certa esperienza perché faccio il direttore del Babylon in Austria, credo che tu lo conosca. Amico mio, come si fa a non conoscere il Babylon? Fa il direttore di che cosa? Del Babylon, il più grande bordello. Di che cosa si occupa questo Rotary Club? No, non è il Rotary Club, è un imprenditore, Fabio. Credo che sia il proprietario o il gestore, non ho capito. Mi piacerebbe essere il proprietario, sono il gestore solamente. Gestisci un bordello da 15 anni, il più grande bordello d'Europa, diciamo la verità. Non un bordello, il più grande d'Europa. Se non è il più grande, quantomeno uno dei più grandi, ma è una catena il Babylon, no? È una catena il Babylon. È una catena, abbiamo solo 3 locali. Avete solo 3 locali. Dove tu sei gestore di dove? Di Klagenfurt? Mi sembra di Klagenfurt, quello tutto che è un po' il più rinomato, perché è all'interno di un castello del 500. Spettacolare. Klagenfurt, poi l'altro dov'è? L'altro dov'è? A Vienna? C'è una a Vienna poi? L'altro a Vienna, una a Vienna e una a Salisburgo. A Salisburgo, capito Parenzo? Salisburgo, ma capito, non le persone... Io a Salisburgo ricordo altre cose di Salisburgo. Però vabbè, cosa ci vuoi raccontare, Fabio? È molto interessante. Adesso abbiamo la pubblicità, l'intervallo, come al solito. Però dopo ti chiamerò per un resoconto dettagliato di cosa significa gestire il più grande bordello d'Europa, il Babilo. Ma dimmi una cosa, subito, veloce, una cosa. La prima cosa che ti è venuta in mente per chiamarci, qual è? La prima cosa, io da tempo ti ascolto e vivo in Austria, purtroppo fatico cioè non riesco mai a prendere la linea perché non ho il numero, mi trovo in Italia, lo tocchiamo perché vorrei parlare di questo tema. So che tu sei a favore, io sono completamente a favore, credo che sia un'attività assolutamente legittima. Vabbè, ho capito Fabio, tu sei a favore perché gestisci un bordello eccetera, poi adesso qualche dettaglio te lo chiedo dopo, fermo lì. Amo Cruciani, odio i vegani, amo Cruciani. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. La Zanzara. come si fa ad andare a puttane, ragazzo? Cioè, ti mortifica proprio la coscienza, lo stato d'animo. Io se andassi a puttane non mi tirerebbe neanche. Andare con una che sai che fa finta di godere, che non sai neanche se gli piaci, devi proprio essere messo male, guarda. Le prostitute svolgono una funzione sociale che non deve essere penalizzata, dovrebbe essere mutuabile. Cruciani, la mia ragazza mi minaccia di diventare vegana e non vuole che ascolto la zanzara. Risposta: Weekend al Babylon. Caro Parenzo, mi stupisco oggi come il presidente di Confindustria Boccia non abbia parlato di una nuova imprenditoria che può nascere in Italia, di un nuovo, come dire, di una nuova iniziativa economica che può essere molto, molto positiva per il comparto economico di questo paese. No, finalmente parliamo di temi seri, sono contento. Cioè, i bordelli. No, mi stupisco di questa roba qua. Io credo che il capo degli industriali italiani dovrebbe essere il primo firmatario della legge sulla riapertura dei bordelli, ma mi pare una cosa evidente. Perché dobbiamo dare dei vantaggi agli austriaci, agli svizzeri? Secondo te è l'asset fondamentale del paese? Potrebbe essere uno degli asset fondamentali. Insieme al sottoscritto, insieme al signor Sgarbi, insieme al signor Salvini, insieme a tanta gente di buona volontà. Ma che bella compagnia. Dovrebbe essere il primo firmatario di una legge per la riapertura dei bordelli in questo paese. Io penso che sarebbe veramente, non questo lo dico per non scherzo. Non credo, come no, dice. Tu non credi, per carità. No, però dice credo che sarebbe veramente una cosa importante per l'economia di questo popolo, per l'economia italiana in generale. Risollevare le sorti di questo paese. Dobbiamo dirlo, questo lo posso dire, grazie alle puttane. Adesso, sarebbe fondamentale. Tu praticamente cosa fai? Rendi, trasformi in legale qualcosa che è illegale. Dunque, fai venire su il sommerso, no? E soprattutto crei opportunità. Non ho per parole. Esempio, Fabio da Treviso, che ci ha chiamato prima, no? Sì. Fabio da Treviso è un gestore di uno dei più grandi bordelli d'Europa, il Babylon a Klagenfurt, se non sbaglio. Fabio, giusto? Sì, esatto. Allora, è costretto, come non ho capito, Fabio? Hai detto delle cose giustissime, dico al contrario di quello che dice Parenzo, purtroppo. Alza un po' la voce, Fabio, vabbè che sei abituato a lavorare in un bordello. Dico che hai detto delle cose giustissime, sì, allora, al contrario di quanto dice Parenzo sull'argomento, purtroppo. Allora Fabio, Fabio potrebbe tranquillamente lavorare in Italia, perché è costretto ad andare a Klagenfurt? La fuga dei cervelli proprio. Beh, assolutamente, in questo caso. La classica fuga di cervelli. Ma perché il gestore di un bordello rispetto al gestore... Non parliamo di... Scusa se interrompo, Beppe. Non parliamo di fuga di cervelli, parliamo di qualche centinaio di migliaia di prostitute in Italia che pagando 1.000 euro al mese genererebbero un introito di qualche miliardo. Per lo Stato italiano. Ma adesso qualche miliardo non lo so. Sarà mica questa la priorità, ragazzi, conti, belli, su. 1.000 euro al mese per qualche centinaio di migliaia di prostitute. Quanto guadagni tu a gestire un bordello? Scusami, Fabio, quanto guadagni? Beh, io guadagno bene. Adesso mica fai il truffatore. Così bene da non farmi sognare nemmeno di tornare in Italia o comunque di cambiare mestiere. E quanti italiani ci sono che frequentano questo? Tantissimi che mi hanno già chiamato, eccetera, eccetera, un posto straordinario. Tanti. L'80% della nostra clientela. Tutti italiani, capito, Parenzo? Tutti i grandi puttanieri italiani, l'80% frequentano sì, il Babylon. Gli ascoltatori della Zanzara, probabilmente. Beh, sì, per fortuna direi. Di quelli che telefonano, non che ascoltano. E le ragazze, per esempio, quanto guadagnano? Fabio, quanto guadagnano? Le ragazze dipende da quanto lavorano, comunque possono guadagnare molto, anche poi. Di migliaia di euro, dipende, sono libere di applicare le loro tariffe. Sì. Ma tipo quella che guadagna di più, quella che guadagna di più, quanto guadagna al Babylon? Beh, sai, io ti posso dire, non so, può guadagnare, che ne so, qualche migliaia di euro anche al giorno, dipende dal cliente. No, ma in media, d'accordo, in media c'è chi guadagna, che ne so, 200.000 euro l'anno pure? No, sicuramente, cioè, sì. Sicuramente. Vabbè Fabio, ciao. Fabrizio Salerno, vai Fabrizio. Ciao. Dimmi. Senti, ho chiamato per il discorso del si commuove l'Italia per le adozioni di Lampedusa. No, per le adozioni, per questi superstiti, soprattutto per questa bambina. C'è la storia di una bambina che è arrivata senza genitori e che evidentemente ha fatto commuovere qualsiasi persona di buon senso, mi pare. Vabbè, Fabrizio, no, ma l'avete vista la foto? Ma io sono d'accordo con te, Parenzo, però tu, perché bisogna dire, usare metodi impropri per descrivere le cose? Lì non ci vuole il pietismo, la compassione, ci vuole il pragmatismo, e non sono né leghista né altro. Io sono d'accordo che vediamo la parte buona degli italiani che si muove, ma raccontiamola in maniera più razionale. Non è necessario per forza sempre commuoversi, ma facciamo delle cose pragmatiche anziché sempre commuoverci. Più pragmatica di soccorrere le persone in mare, che cosa c'è per ora? Questa è l'unica priorità per ora. Sì, ma dietro questo soccorso c'è qualcosa di sbagliato. No, dietro la commozione c'è un'altra cosa. C'è il fatto che questa bambina di 9 mesi è arrivata a Lampedusa. Vabbè, ma dopo la commozione non hai i problemi, bisogna risolverli. Incinta, dai, di un altro bambino è morta durante la traversata, e questo la foto, l'immagine, la storia ha fatto giustamente. Ma sentiamo Dio mio, la bambina di 9 mesi, l'Italia, queste offerte d'aiuto che arrivano da tutta Italia dimostrano un paese diverso da quello che alle volte si vuole rappresentare. Cerchiamo di impedire che questi barconi partano. Cerchiamo di impedire che questi barconi partano. Bombardiamo i barconi, non con la gente dentro, nei porti, come disse una volta il professor Luttwak. Impediamo che partano i barconi con le donne dentro, dai. Ma su, cosa vuol sennò dire saremo costretti a recuperare migliaia di persone ogni giorno in tutto il Mediterraneo. Dai, mamma, non scherziamo, mia, dai. Ragazzi, Mauro, Reggio Calabria, vai. Mauro, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Allora, tu te lo ricordi Enrico Rizzi, cioè il presidente del Partito Animalista Europeo? Come dimenticare? Come dimenticare? Prima o poi qualcuno ti farà secco. Allora, ti volevo raccontare brevemente un aneddoto. A Reggio Calabria, nella mia città, il sabato 21 maggio scappa un toro. Sì, ho saputo di questa storia. Sì, terrorizza la città. Ho visto le immagini incredibili, un toro scappato, alla fine l'hanno battuto, diciamo. Un dramma, ragazzi, Donald Trump è caduto repubblicano. Giustizia per Calabria, la vitellina barbaramente uccisa, un toro, insomma, 300 kg di bestia. Insomma, fatto sta che per tutelare l'ordine e la salute pubblica, un agente delle forze dell'ordine gli spara. Sì, e gli animalisti stanno cominciando a rompere i coglioni, no? Gli animalisti stanno già rompendo i coglioni. C'è Reggio Vegana, che dal 22 di maggio al 4 di giugno sta facendo un sit-in di fronte al municipio per chiedere giustizia per questa vitellina barbaramente uccisa. Era un toro, non era vitellina, ma era un toro, ma ho visto le immagini, un toro scappato, a un certo punto è stato abbattuto, punto e basta. Non rompessero i coglioni questi qua, chi è? Reggio Veg. Ah sì, è chiaro. Ma io non lo so se poteva essere sedata. Ma non so però, se è stata sedata. Non c'era il tempo. Non è stata sedata, non c'era il tempo di far intervenire evidentemente la guardia ecozoofila, quello che era, l'hanno abbattuta, hanno ammazzato un animale, tra l'altro che non aveva neanche una targhetta identificativa, non si sa di chi sia, eccetera. E a proposito dei Rigorizzi, si sta facendo portavoce, vuole chiedere gli atti per presentarli alla procura della Repubblica addirittura. Ah, non scherziamo. Rigorizzi, pensi alla macchina che deve vendere. Ho letto che vende una macchina che ha dei pezzi di pelle dentro. La macchina. Ah, beh, questo non lo so. Ciao Mauro, ciao. Grazie, ciao. Allora, Donald Trump raggiunge soglia dei 1238 delegati, ragazzi, ottiene la nomination repubblicana. Questo è un dramma. Stiamo arrivando, amici miei, tifosi di Trump, ci siamo! Il primo passo, questo è il primo passo. Sì. Donald! Ma che sei matto, sarebbe una tragedia epocale. Io sono esaltato dall'idea che un Trump... Un isolazionista islamofobico alla guida del più importante paese del mondo, lascia, ragazzi. Perdere, sarebbe Donald, tragedia. Siamo tutti con te qui, tutti con te. Donald, Mauro, vai. Mauro, c'è Mauro Domando, ha chiamato, vai. Mauro, manca oggi. Dimmi. Grande Donald Trump. Ah, ecco. Grande. Ha ucciso Trump in una. Sai perché mi piace Cruciani? Perché? Perché sul comodino hai il libro con la biografia di Adolf Hitler. Ma chi? Trump. Hitler. Hitler. Io lo stimo e lo apprezzo per quello. No, ma perché lui ha capito tutto. Guarda che una testata in faccia non lo guarirebbe, ti assicuro. Sì, una testata. Mauro, scusami. Non lo guarirebbe. Mauro, scusami un attimo. Hai detto una cosa gravissima. Primo, perché? Che lui ha sul tavolino la biografia di Hitler, ma in campo questo lo dici tu. La TV, Ma non credo che abbia. Non credo. Lo ha dichiarato e poi scusa, lo ha dichiarato lui. Poi scusami, Mauro, hai detto prima Heil Hitler. Che cosa hai detto? Vabbè, perché sei un ammiratore di Hitler, tu? Certamente, io sul mio telefonino c'ho Mussolini e Hitler, non te l'ho fatto vedere, quando sono venuto c'è, non te l'ho mica fatto vedere. Ma no, veramente, sul mio telefonino, quello è vintage, ho Hitler e Mussolini. Ma come, non ho capito, ma davvero sei un idolo di Hitler? Cioè un idolo, cioè Hitler è un tuo idolo? Io, a me piace Hitler. Ti piace Hitler? Guarda che ti piace i malati mentali come te, Hitler li metteva in campo di concentramento. I malati mentali come te li metteva in campo di concentramento. Dai, dai, su. Ascolta, Cruciani. Allora, quelli che gli piace Stalin, sai cosa ne ha uccisi Stalin di ebraico? Vabbè, ma quello che dicevo, quello giusto. 8 milioni! Ne ha uccisi 8 milioni! Ma nessuno. Ne ha uccisi 4! E che cazzo mi viene a dire a me? No, veramente erano 6. Veramente erano 6. Però comunque. Ma che cazzo mi viene? Dai, basta, chiudilo sto idiota. No, io dico, no, ma non ho capito, come fai a dire, scusa, come fai a Mauro, adesso, oggettivamente, uno che dice oggi mi piace... Le stime di cosa? Allora, nella seconda guerra mondiale, Madonna, Hitler ha ucciso 4 milioni e mezzo di ebrei. Allora, tu sei magari sei pure contento, questo è il punto. Sei pure contento. No, allora, aspetta, Mauro, fermo. Fermo lì che c'è la pubblicità. Fermo lì. Fermi tutti. Attenzione, donne. È arrivato il Parenzo Nano. Parenzo Nano. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. E passare solamente i messaggi adulatori nei confronti del conduttore. È l'ottavo messaggio che mando e non lo passate mai. Fate schifo. Allora, siamo con Mauro da Mantova che ha chiamato dopo non so quanto tempo. Sì. Ascolta, Mauro, Giuseppe, dimmi Mauro. Allora, io non posso parlare con gente che non è informata. Ma su che cosa? Dimmi. Voi non mi informate e date per scontato che io sto ricattato. Io prima vi informo, poi parlo. Allora, voi non mi informate, non potete. Ma su che cosa non siamo informati? Su che cosa? Sulle stime. No, ma lascia perdere, non ce ne frega niente. Volevo capire se ti eri commosso per la bambina che hanno salvato nel Mediterraneo. Figurati. Ma beh, insomma, che non ha piacere che venga salvato un bambino. Dai, Cruciani, ascolta, parliamo di aria fritta, Comunque, io ho telefonato per il discorso il sesso a pagamento. Il sesso a pagamento. Allora, tu devi sapere, Cruciani, sì, dimmi, che tu puoi crederci o non crederci. Io ho cominciato a 11 anni a fare sesso con una bambina. No, come vabbè, ragazzi, però adesso... No, ma non... Mauro, adesso ho capito. Di peggio, ma non mi stupisce questo per nulla. Dai, anzi, mi conferma su. Ma parlaci, che cosa pensi del sesso a pagamento? Adesso dici la tua e poi così ti liquidiamo. Dai, forza. Ma ascolta, ho mica capito io. Ma se uno non ha la moglie, o è il suo caso, è evidente. È evidente che uno come lui, ma se non paga, ma con chi va? Ma uno come lui, anche le prostitute si lamentano di lui. Le prostitute lo stesso non ci andrebbero mai con uno come lui. Si rifiutano con un essere così schifoso. Se poi sta zitto lui, parlo io. O parla il coglione, parlo io. Vai. Allora. Io ho 17 anni, sono stata la prima volta che sono andato con una puttana sulla Paolese. Ma per forza, ma dove? A che età? Paolese, 17 anni. A 17 anni, vabbè, d'accordo, abbiamo saputo questo dato. Sei andato per la prima volta 40 anni fa. Sì. E sono andato una prostituta di sulla Paolese, quella che porta da Milano a Cremona. Va bene, allora, dunque... Con il mio lavoro super puttaniere doc. Sì. E lui le ha fatte tutte le ha fatte, bene. Poi? In 3 anni le ha tutte fatte a tappeto. Tutti i giorni. Cioè il tuo datore di lavoro andava a puttane regolarmente ogni giorno. Sono trovati due maiali. Non ne ha perdonata una. Vabbè, d'accordo, ma quello sono anche cazzi suoi adesso. Perché lo devi sputtanare? Devi sapere. In che azienda? Diciamolo tutti. In che azienda lavoravi? Scusami, Andavamo a consegnare la frutta. In che azienda lavoravi? In un'azienda, una piccola azienda che comprava frutta, un fruttivendolo, e andava a vendere la confezionata a Milano. Ma questo magari la frutta alla mamma di Berlusconi, villaggio Mediolano. Ma che cosa ce ne frega noi adesso? Cosa ce ne frega noi? Una notizia clamorosa questa qui. Vabbè, allora. Quello. A Milano partavamo la mattina alle 4, sì. Arrivavamo a Milano alle 8, via le Micenate, via le Forlavini. Vabbè, dopo? Andavamo a via le Certosa, che andavamo a Colonio Montese, sì. Andavamo e poi andavamo a casa verso le 4, le 5, avevamo finito. Quando passi alle 4, le 5, le 6 di sera, sì. Sulla Pavolese ci sono le signorine. E vuoi non fa, non vuoi leggere una bottarella? E gli dici, voglio una bottarella. Fine. Cioè non a pagamento, per forza. No, momento, tu non lo sai, non lo so, non me ne frega niente. Io da una domenicana, sì. 3 anni fa, da una domenicana, sì, che hai fatto? Sì, che hai fatto? Città, che uomo schifoso, sono stato violentato e io ho avuto un proprio un piacere. Come sei stato violentato? Non ho capito. Come sei stato violentato? L'ho conosciuta. Ma che vuol dire sei stato violentato da una domenicana? Ma io adesso va bene tutto, però perché devo ascoltare i racconti di vita di Mauro che è stato violentato? Ma vuoi mettere essere violentato da una prostituta che non ti chiede i soldi perché ha gradito la tua presenza? Questo quel coglione che hai a te non lo potrà mai avere. Questo tu mi fa male. Vabbè, vabbè, digli qualcosa. Sai chi è stato? Sai chi è stata? Sai chi è? La domenicana diceva veramente lui quel faccio lì non poteva mai avere quella soddisfazione. Vabbè Mauro, adesso i racconti della tua vita sessuale sono per carità. Neanche le legnate lo salvano questo qui, neanche le legnate sulla testa lo salvano questo qui. Neanche le legnate. Hai guardato la gabbia? Hai guardato la gabbia? Che è successo? Ma hai fatto vedere il filmato di quel, io non so come definirlo, se Gengis Khan, Cenerone, chi Starace. Ma l'abbiamo mandato, ma l'abbiamo mandato 10 giorni fa il filmato di Starace che diceva i dipendenti. Io l'ho visto ieri sera. Vabbè, allora, allora. Ma come si fa a dire se non accetta il cambiamento vanno eliminati? Oh, ma dove sei? Da Stalin? Ma scusa, da Tito che le metteva nelle foglie. Ma scusa, ma non ho capito. Scusa, Mauro, tu ti dichiari un ammiratore di Hitler e poi ti stupisci che quello dell'ENI dice che bisogna eliminare i dissidenti nell'azienda, che peraltro non ha detto proprio così. Ti stupisci di questo? Ma Hitler non ha mai fatto una roba del genere. Ma questo, vabbè, ragazzi, ma io non le posso dire. Tecnicamente, Lorenzo, liquidalo tu, dai, liquidalo tu, ti prego. Io non ce la faccio perché sono attratto. Ho un'attrazione mentale per la follia. Dai, per cui, basta, tiriamo l'acqua e mandiamo. Siccome via, ho un'attrazione per la follia, non riesco ad eliminare Mauro, lo terrei in collegamento per un'ora. Lo terrei per un collegamento per un'ora. Tira lo sciacquone. Fai tu, ti prego, fai tu. Tira lo sciacquone, datevi uno sciacquone che lo eliminiamo. Io ho lo sciacquone. Sì. Quel coglione che hai a fianco. Che è solo augurarsi. Che cosa? Che non venga chiamato a Milano in vengo carrozzeria a Mantova, a lavorare. Vengo a Mantova per darti una testata. Perché se vengo a Milano a lavorare. Che fai? Che fai? Io vengo in radio e lo pesto davanti. Ma è a Roma, che paura, è a Roma, però è a Roma. C'è questa vengo piccola... io a Mantova, ti do una di quelle testate. Sì, guarda, sì, che te vieni, la ricordi. Vieni, che ti sistemo, che ti mando a casa scassato tutto, coglione. Sai perché? Ti saluta. Non fare, non dire cose che poi sono costretto a smentire, cose di questo tipo. Avanti, dimmi. Chi mi saluta? Dai, forza. No, non voglio sapere niente. Ciao, non voglio sapere niente. No, chi mi dovrebbe salutare? Dimmi. Allora, ti saluta dannato. Dannato sarebbe il titolare del diciamo a me, slacciando dove vado io a pescare figa. Hai capito? Ma chi lo conosce questo qua? Li conosci tutti tu? Lui mi ha detto salutami Cruciani. Va bene, adesso quando chiamo ti saluto Cruciani. Questo qua è uno sputtano. Lui guarda, lui ascolta la zanzara. Meno male. Mi ha detto salutamelo perché mi piace la sua trasmissione. Non mi piace quel coglione che ha a fianco, però non mi piace Cruciani come fa la trasmissione. Vabbè, e soprattutto ti saluta quel trans coglione di corvo. Ma chi è? Ma chi non li conosco questi personaggi? Allora, questa qua è una che mi ha voluto il mio numero per il Parenzo, lo vuoi per favore? No. Lo vuoi fermare? Pensavo che fosse una bella. Mi chiama, sento la voce che sembra l'orco assassino, ma vaffanculo, transone. Quando mi viene a chiamare a me che sei un trans, ma perché che ti hanno fatto di male i trans? Cosa ti hanno fatto di male? Chiudi sto poveraccio, basta. Chiudi, che ti hanno fatto di male? Con una donna che ha chiudilo, di gola, chiudilo, che ha mamma e ci vai tu. Vabbè, io ma... vado con uno che ha la figa. Ma se tu sei veramente, sei bisogna. Veramente un razzista, sei di tutto. Ma no, sei, ma sei, sei, ma sei, ma sei, ma chiudilo, chiudilo, chiudilo. Ciao, ciao, ciao, ciao, fai schifo, fai schifo, fai schifo, schifoso, schifoso. Ragazzi, andiamo a Roma, Massimo, dai. Massimo. Cruciani, buonasera. Dimmi, buonasera, dimmi. Ragazzi, fra poco tenteremo un collegamento con il professor Barbato. Con il professor Barbato, lo ricordate, quello dell'Italia dei Valori, eh? Barbato, l'ex onorevole fustigatore. Che dolore, mia figlia è integralista. La figlia è diventata musulmana, pare pure integralista, incredibile. Quello che scoprì Razzi, no? Fu artefice di quel filmato di Razzi. Come no, come no, come no. In cui Razzi disse, no? Fateli cazzi tu, facciamo. Te lo dico da amiche. Massimo, dimmi. Eccomi, dai, Lorenzo, dai. Cruciani, siete un, come dire, la prova che gli opposti sono, si equilibrano, in perfetta. Vabbè, Massimo, hai detto una cazzata banale, forza, no, vai avanti. Non è una forza. Cazzata, non è una cazzata, è che mi piacete entrambi, nonostante siete una dicotomia perfetta. Vabbè. Allora, senti, 7 anni fa per lavoro, Isole Svalbard, vedo da lontano una mattanza. Perché te lo racconto? Perché la guardia cinofila, ma spesso tutti quei... vegani, ma più che vegani, animalisti, animalisti integralisti, sì. Parlano con rabbia. Allora glielo racconto cosa ho visto. Ho visto una mattanza di globicefali. Cosa ho provato? Sono le balene, che sono? Niente. Sono piccole balene. Sì. Non ho provato niente. L'uomo è stato creato dal grande architetto dell'universo per essere superiore agli animali. Ma sei stato e tu a... Hai partecipato anche tu a quella no, caccia? No, non puoi partecipare, è pericoloso perché puoi farti male, se non sei capace ti fai male. Ti vabbè, di fronte alla mattanza delle piccole balene ci stai dicendo giorni, non hai provato nulla, vabbè. Però in questi giorni, visto che continuano ad attaccare mangiatori di cadaveri, sai cosa ho mangiato oggi? Ho mangiato il pesto di cavallo, non lo avevo mai mangiato prima perché la carne cruda non mi piace. L'ho fatto con gusto per dar fastidio a tutti quelli che sono vegetariani, vegani. In realtà non è che hai dato molto fastidio a queste persone qua, però l'hai fatto per una forma di rivincita. È la soddisfazione, visto che sono aggressivi e cattivi, io non lo sono, ma mi sarà, non lo so, che mi diverto con poco, forse, però me lo sono gustato. Era pesto di, non ho capito. Pesto di cavallo, te lo consiglio vivamente. Mai, non mai, lo sai mai che forse prima. non l'ho mai mangiato. Buonissimo. Pesto di cavallo, cioè, di cavallo trinciata, pasta col pesto di cavallo. Buoni, ma che pasta? Non è pesto, è la carne di cavallo cruda, condita, sì. Opportunamente, buonissima. Mangiala, è fantastica. Altro che coniglio. Va bene, Massimo, ciao. Anche è buono. Ciao, ciao. Ciao. Umberto, Chieti, vai. Buonasera. Dimmi, dimmi. Ascolti, Umberto. Io volevo intervenire per quello che riguarda la questione migranti. Dire al signor Parenzo che ormai non è più ora di questo finto buonismo. Ma quale buonismo? In quanto la testimonianza ci viene da Ventimiglia, sindaco del Partito Democratico. Infatti che lui c'entra? E 11 suoi assessori questa mattina si sono dimessi. Volevo sapere che cosa ne pensa in merito a questo. Ma che cosa devo pensare? Mai. Ma non c'entra l'appartenenza politica per me, infatti, c'entra il punto. Gli errori li fanno anche quelli del PD, ovviamente. Che cosa vuol dire? Ma che non cambio mica la posizione io. Vabbè, che Umberto, non ho capito che cosa vuoi dire con questa cosa. Vuol dire niente, non vuol dire. Io voglio dire che è il momento di dire basta a questi arrivi incontrollati. Basta a questi arrivi incontrollati. Va bene, Salvatore Napoli, dai, Salvatore da Napoli. Eccoli qua, buonasera. Dimmi, dimmi, vai, vai. Volevo rispondere a David. All'inizio ho sentito quell'ipocrisia che come al solito dice sempre sul buonismo, sul bambino che viene affidato, che chiedono l'adozione, 1000 persone. Sono gli persone. Italiani ipocrisia. Che chiedono di adottarlo a centinaia. Stai zitto, David, stai zitto. Somaro, ipocrisia. Non io, sempre sono gli italiani, quelli la migliori di te. La quelle di tutti gli italiani. Mamma se mia. Se era un cane, io sono possessore di cane, ho pianto quando è morto il mio cane. Avrebbe fatto la stessa cosa, avrebbe chiesto l'adozione del cane. Punto. Ma questo è matto, ma poi... che c'entra il cane con questa bambina? Però è vero che se avessero salvato un cane, ci sarebbe stata la fila di italiani per adottare un cane. Ma anche qui c'è per un bambino che è arrivato, la madre incinta morta durante la traversata. Ma ha ragione, ragazzi, Salvatore, ha ragione. Che poi non c'è nulla di buonismo, ragazzi. Questa è la puttanata che viene diffusa anche dai legaioli. Buonisti quelli che vogliono adottare. Non è così, non è così. Non è che sono buonisti, non sono buonisti, sono persone per bene, non buonisti. Fermo lì. Oh, ma non avete proprio un cazzo da fare, ragazzi. Ore di radio perse. La Zanzara. In collegamento da Camposano, provincia di Napoli, l'ex onorevole dell'Italia dei Valori, Barbato, il mio amico Barbato, come stai? Bene, Giuseppe, buonasera, ecco. Buonasera a tutti. Ciao. Beh, caro, ciao. Amici miei, che succede? Perché abbiamo richiamato Barbato dopo tanto tempo, dopo le canzoni cantate qui alla radio, dopo le battaglie politiche, dopo che ha messo in mezzo con quel video pure l'amico senatore Razzi, quello del... No, com'era la frase famosa che hai carpito in quel video, caro Barbato? Com'era la frase famosa? La frase famosa dice: fatti i cazzi tuoi, perché fra poco vado in pensione e se mandiamo a casa Berlusconi... mi salta la pensione. Ma hai fatto pace poi con Razzi per questa roba o no? No, ma io non ho mai litigato perché... Vabbè, hai fatto la cosa, ti sei messa la telecamera nascosta, amico mio. Ma siete andati in tribunale, avete fatto causa, che avete fatto? No, assolutamente, perché poi non... Senti, però oggi, oltre a essere candidato sindaco, non so in quale paesino, forse casa tua lì... Per chi è candidato? A Camposano, in provincia di Napoli. A Camposano? Per quale partito? No, per i cazzi suoi, credo, una lista civica. No, i cazzi miei non esiste perché non ho mai fatto la politica per i cazzi miei. No, per i cazzi tuoi. Per i cazzi degli italiani o dei camposanesi, nel caso in specie. No, Francesco, volevo dire un'altra cosa, non per i cazzi tuoi, sto dicendo con una lista tua, non di un partito, dico, no? In questo senso. Ma io non ho mai avuto liste di partito, perché anche in Parlamento io sono stato eletto con Italia dei Valori, ma non mi sono mai iscritto al partito di Italia dei Valori. No, però ho capito, Franco, ma io non mi ricordo poi il tuo nome di battesimo, è Franco o Francesco? Francesco. Ah, Francesco, perché oggi ho letto Franco da qualche parte. Allora, no, è per una lista civica, che è la lista civica? Sì, è una lista civica perché è il mio profilo storico. Io ho fondato la lista civica nazionale nel 2004 con Illy e tanti altri, perché avevamo già capito allora che per i partiti era finita. E quindi allora, però Francesco, io ti chiamo soprattutto per una cosa. Prego. Leggo oggi che tua figlia, dandoti un grandissimo dolore, è diventata islamica. Diciamola tutta. Questo è una cosa molto importante. Forse è meglio islamica che leghista per lui. Per chi come me ha cominciato dall'asilo con le suore, le elementari con le suore, il liceo con i preti al seminario, forse ha una cultura quello. E una formazione un tantino diversa, perché sono stato educato ad essere cristiano e... Ma come l'hai saputo? Come l'hai saputo? Come l'hai appresa questa cosa qua? Lei è andata in India, no? A un certo punto. E l'ho appresa mentre ero a Montecitorio, ero alla camera, stavo intervenendo in aula e mi chiama la mamma e mi dice: guarda, sai una cosa, tua figlia è in India. Sì, è in India. Fino a qui. Si è laureata l'altro giorno, abbiamo fatto la festa lì all'università, alla Federico II a Napoli. E che famo in India? No, dice, lì con un ragazzo che ha conosciuto lì in università e aspetta anche un bambino da questo ragazzo. Vabbè, il mondo che così è diventato così volatile, dove mentre stai qui a Napoli ti trovi in India, ed è giusto così, perché penso che la mia libertà finisca dove inizia. Allora che succede? Ti ha detto questo poi? E mi ha detto questo e naturalmente io sono rimasto al mio posto, perché ha fatto una scelta di vita, è passata, diciamo, a questa nuova religione. Ah, ma qua ti ha subito detto che era diventata islamica? Sì, perché poi è rimasta per un po' di tempo lì in India, fin quando poi non l'abbiamo convinta a tornare in Italia, almeno per partorire, perché aspettava il primo bambino che ha avuto poi qui in Italia, perché siamo c'ha tutto, ho visto che va in giro tutta coperta praticamente. Perché è proprio le regole che deve seguire per chi pratica quella religione. Cioè integralista proprio. Eh sì, integralista nel senso che non dà la mano agli uomini. Non dà la mano agli uomini. Neanche a me, perché mi è capitato una volta in chiesa che eravamo e c'era da scambiarsi il segno di pace, lei era vicino a me con gli altri due miei figli, con Arcangelo ed Amedeo, ai quali ho dato la mano in segno di pace, la do a lei che non me l'ha data. Perché scusa, che ci stava a fare in chiesa se era diventata islamica? No, era morta la nonna e quindi era per motivi, diciamo, diversi. Per motivi diversi. E poi che cos'è praticare. Che non fa? Cos'è che non fa? Non ho capito. Non dà la mano, è già una cosa incredibile, uno che non dà la mano agli uomini. Diciamocela tutta, caro Francesco. Una persona che non dà la mano agli uomini, ma che religione è? Che religione è? Vabbè, guarda, ti dico la verità, non dare la mano alle persone, io lo dicevo in Parlamento, ci sono dei miei colleghi deputati ai quali non stringo neanche la mano. Vabbè, ma ho capito. Persone... Ma sì, ma quella piano. È una scelta diversa, dai, su. Poi che, allora... cos'è che cos'è che non può fare, per esempio? Ma ad esempio pure con l'alimentazione. Cioè? Usano... Non mangia maiali, certo. No, non ne mangiano affatto. Ma poi quello lo sappiamo. Pure, insomma... non bevono alcol. Non bevono alcol, vino non ne provano. La macchina la può guidare? La macchina la guida? No, la macchina la guida, tutte le attività ordinarie. Cioè, la vedi un po', la vedi un po' sottomessa a questo marito dal punto di vista della donna? Diciamola tutta, è un po' sottomessa o no? Eh sì, infatti è questa la cosa che mi turba di più, perché proprio c'è questa cultura della donna geisha che naturalmente... Schiava, diciamo, geisha, schiava, sì, un po' purtroppo schiava. Purtroppo è proprio un elemento di quella... di quella cultura. Ma il marito? Ma insomma, sei ti vedo un po' con la ti vedo un po' sei disperato, diciamo, un padre, diciamoci la verità, ragazzi, un padre che deve assistere. Cioè, preferivi fosse leghista, forse? Guarda, io preferisco solo che alla fine stia bene mia figlia, per cui o è leghista, o è indiano, o è buddista. Ecco, e sta bene secondo te o no? Tua. Sta bene o no secondo te sta ragazza? Aisha si è chiamata. Lei adesso. È felice, lei sta bene, lei ha cambiato vita ed è la ragione per la quale la rispetto. Perché ma come si chiama? Lei si chiama Manuela, no? Manuela, sì, potrebbe anche aver ragione lei. Ecco, ma come? Questa. No, ha ragione lei adesso, ragazzi, questo è un po' troppo. Ma come si chiama? No, come, tu come la chiami? Come la chiami? Manuela, io la chiamo sempre Manuela perché questa però è nata, si è chiamata Aisha. L'ho battezzata e vabbè, nel momento in cui ha fatto una scelta di vita. Aisha mi diceva era la compagna, era la moglie di Maometto, di chi sarà, eccetera. È un nome importante per loro. Quindi ha preso il nome di Maometto, della moglie di Maometto. Dai, camma fa, amico mio. Senti, ma quando la vedi pregare? Quando la vedi pregare, no? Quando la vedo pregare è una cosa che naturalmente, ovviamente... Come quando prega? Spiegami quando prega. Ma predica soprattutto durante le ore... Ma dove vive adesso, scusa? Vive qui, in casa mia. Aspetta che torniamo, mi sa che ci parliamo pure, dopo la pubblicità. Aisha è là accanto a te? Signora Aisha? No, è che è stato finora, adesso è ritornato su per i bambini che doveva fare qualcosa. Vediamo se la troviamo. Intanto ci sono 3-4 minuti di pubblicità, aspetta, chiamala, va, chiama Manuela. Aisha. Pubblicità. La zanzara. Crocià, ma ci avesse ragione a Celentano, passa una vita a quattro zampe come i cani, andiamo in giro per strada, si odoriamo il culo, ogni tanto si ingroppiamo, quando c'avevamo un cazzo da fare si mettiamo da una parte, si leccamo da soli le palle, ma sai che vita, hard top. Io preferisco vivere la vita di un essere umano, non quella di un animale, eh. Io preferisco sempre vivere. Così parlava un candidato ora con Marchini. 2014, si chiama Marco Ferdinandi, ripeto, adesso candidato con Marchini a Roma. Marino, stacci a sentire, noi ci abbiamo avuto un'idea stamattina, magari è una cazzata, però mai meno delle due. Allora, hai visto quel casermone de marmo? Quello di pietra. Che mi pare so 2000 anni che c'è sta. Sì, no, mi sa di sì. Che sta al centro? Che ci fanno? Ma che sta a fare là? Non lo usa nessuno. Ma senti, ma famo una cosa. Ci mettiamo tutti infissi, belli, anodizzati. Alluminio, legno, alluminio. Famo una cosetta carina. E mica fammi cose così, sta a Roma, che sta scherzando. O coprimo e ci mettiamo in zinga, di amici tua. Ma sai come stanno lì? Togliamo i campi nobili. C'hanno gli spogliatoi? Perché c'hanno gli spogliatoi? Certo. C'hanno gli spogliatoi. C'hanno da dormire? Stanno al centro di Roma. Al centro di Roma. E poi... Ma cosa migliore? Senti che furbata. Casa e lavoro. Gli mettiamo tutti i turisti sotto. Tanto ce l'hanno i turisti, quelli... C'hanno casa e lavoro. Quelli, capito? Che dici? Non escono più. Non ti danno fastidio, quindi non c'è problemi di parcheggi, non c'è problemi di traffico, non c'è problemi dei metropolitani. Stanno dentro, lavora. Che dici? Faccia sapere, Mario. Vabbè, va, tanto ci vedi, no? ti segnalo, David, che Paolo Brosio, dimmi, ha scritto, cari amici, ieri sera la Madonna è apparsa alle 22 sulla collina del Podbrdo, è una località a Međugorje, al veggente Ivan. Questo Paolo Brosio. Paolo Brosio dice che è apparsa la Madonna ieri a Međugorje al veggente Ivan e ha pregato incessantemente per la pace nel mondo. Vi mostro una foto scattata ieri sera durante questa apparizione. In genere queste apparizioni straordinarie in pubblico vengono richieste dalla Madonna, ripeto, vengono richieste dalla Madonna al veggente il giorno precedente durante l'apparizione privata quotidiana. Quindi Ivan ha ricevuto domenica pomeriggio alle 17:40 l'invito dalla Madonna a recarsi in quel posto. Poi pubblico una foto della Madonna che però pare che sia di plastica. Ce lo siamo giocati, ragazzi. Ma da tempo, dai. La siamo giocati. L'apparizione della Madonna dal veggente Ivan a Međugorje. Che Paolo, devi fare? Paoli. A proposito di Madonna e di religione, siamo in collegamento con Francesco Barbato, ex deputato dell'Italia dei Valori, insieme alla figlia Manuela, ora Aisha, che fra poco ci passerà. Caro Barbato, mi passi un attimo tua figlia, per favore? Sì, te la passo subito, è qui vicino a me e mi raccomando, non la maltrattate. No, con tatto, con grande tatto, con grande tatto. Perché ha appena finito l'intervista che è passata su TG4 poco fa. Sì, tanto per rendere la cosa... Ci penso io. Giusto per essere così un po' discreti. Ma dobbiamo iniziare tra poco il secondo tempo, perché il primo tempo che ho fatto in politica vi è piaciuto e secondo me tra poco inizieremo il secondo. Mettiamo in mezzo tua figlia, che ci frega tanto, dai, forza. Mettiamo in mezzo tutto, perché tutto. Stava, quello che c'è stava prima non ci piaceva, ma mo è ancora peggio, e allora davvero ci hanno rotto i coglioni un po' tutto. Tutti ci hanno rotto i coglioni. Tutto, dai. Poi dici che la figlia diventa islamica. Aspetta, tu resta lì, Manuela. Sì, eccola. Ci penso io, No, no, aspetta. Buonasera, all'inizio. Pronto? Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Ma che parlate? No, ho detto salam aleikum, che è il saluto che si fa. E lei ha risposto. Senti, aleikum salam. La domanda è questa, cara. Come ti devo chiamare, Manuela o Aisha? Ma come volete. Vabbè, in Italia potete chiamare anche Manuela. Anche Manuela, perché quando ti sei convertita all'Islam? 4 anni fa. Andando in India? No, stavo stesso qui in Italia, diciamo, sì. È stato un anno di meditazione. Di meditazione, diciamo, ci ho pensato molto, è stata una mia scelta di vita, quindi. Certo. Ma è con lei adesso? A quanti anni, scusa, ti sei convertita all'Islam? Avevo nel... aspetta... 2012. 2012, quanti anni avevi nel 2012? Scusami se ti chiedo l'età, però... 22 anni. Ecco, sì. Io dico una cosa, una ragazza quanti di 22... anni ha il marito, il compagno, insomma, il... 35 anni. Quindi più grande. Allora, io dico una cosa, cara amica mia, 22 anni, sì. Con tutta una vita davanti, no, nel mondo occidentale, eccetera, eccetera. Perché uno si converte all'Islam? Io non ci riesco, non ce la faccio, con tutto il bene del mondo, non riesco a capacitarmi di come una ragazza di 22 anni, nel pieno della sua vita, che ha fatto l'università... Sì, ma è stata la mia libera scelta, non sono stata condizionata da nessuno. Capito, ma che c'ha sto questo Islam, ma che c'ha sto Maometto? Ma come sto Maometto? Credo in più rispetto alla religione cristiana, perché che non mi ha dato mai niente. Non ti ha dato niente il cristianesimo? Non ti ha dato niente? Non andavo in chiesa, non era una religione che mi piaceva, diciamo. Non ti piaceva, diciamo, non ti piaceva molto. Invece che c'ha di più l'Islam? Tante cose, pure tipo? Perché, vedevo su YouTube... parecchi, diciamo, animali che portavano il nome in arabo di Dio, quindi allora? Erano tutti queste specie di segnali che i segnali che hai avuto, che erano animali che portavano il nome di Dio? Sì, pure in qualsiasi cosa, un'anguria, la frutta, in qualsiasi cosa c'era il nome di Dio. Non abbiamo capito bene, cioè tu hai avuto dei segnali attraverso dei filmati su YouTube per cui la frutta prendevano, spiegami bene sta cosa, cioè, sì, l'illuminazione in pratica, no? Qual è stato il motivo scatenante? Mi piace questa religione. No, ho capito, ti piace, ma che cosa è questa storia dell'anguria, della frutta? Non ho capito bene, spiegami. No, perché su YouTube ero diventata, mi intrigavano queste cose. Ma cosa ti intrigava? Non capisco, i nomi degli animali, l'anguria, non ho capito bene. Sì, sull'anguria, c'era il nome di in arabo di Allah, c'era il nome Allah sull'anguria, siamo su vari frutti, su tutto quello che si vedeva. Sì, e allora? E quindi ho creduto che questa era la vera religione. La vera religione. Secondo me, se vai a spiegare, se vai in Iran a spiegare questa cosa, ti mettono in galera. Cioè, questo io sì. ho il timore. Ma il marito dov'è in questo momento? Scusa, dov'è tuo marito? No, mio marito sta a Napoli. Se voi mi volete condannare, volete. No, noi viviamo in Italia, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Io sono libera. Ma figuriamoci, ma perché non dai la mano? Io sono felice di questa scelta, la farei altre mille volte. Ho capito, ma che c'ha di più? Che c'ha di più l'Islam? Spiegami, cosa ti dà di che ne so? Cioè, l'uomo, per esempio, perché non dai la mano agli uomini? Non ho capito. Perché non dai la mano agli uomini? Perché noi veniamo, siamo considerati come delle regine, diciamo, la femmina non deve essere toccata da altri uomini, perché viene rispettata la donna, quindi... Ma cosa fai tu per il tuo uomo, per esempio? Cosa fai per il tuo uomo? Come? Cosa fai per il tuo uomo? Io lo rispetto, sempre rispetto, non sono mai... scostumata con lui, pure lui certo. Non è mai scostumato, cioè non rapporto di vero rispetto Ma come si prega? Fammi una preghiera, io non capisco bene la preghiera da là, qual è quella che fai tu di solito? Si fanno 5 volte al giorno Cinque volte al giorno, ti metti a pregare 5 volte? Sì, ma i tuoi bambini saranno islamici? Sì, io non li costringo, se loro vogliono, sì, io non è che posso. Ma non ti dà fastidio portare questa roba qua addosso, che c'è la specie di chador, questa roba tutta coperta, eccetera? Non ti dà fastidio? No, no, anzi, perché la Madonna porta il velo, scusa. La Madonna. Madonna importante, scusami un attimo, ma le donne di oggi che vanno, una che va con la minigonna, secondo te com'è? Per me non è buono. Non è buono. Perciò si sentono sempre le violenze, diciamo, le donne che vengono violentate. Cioè, dice colpa anche del fatto che si vestono. Sì. Cioè fanno vedere un po' troppo, diciamo. Le cose a me, da quando io esco, gli uomini non si permettono, mi rispettano. Non te vedono. Non si permettono proprio anche di sfiorarmi, quindi. Ti credo, non ti vedono però. La situazione è diversa rispetto a quando. Cioè, tu dici che una che porta la minigonna. Fa vedere un po' di cosce, un po' di seno, magari così attrae gli stupratori, certo, sì. È un po' colpa sua pure se succedono gli stupri. No, vabbè, la donna non è che deve essere è meglio non provocare, no? Sì. È meglio non provocare, amico mio, la storia è così, caro Parenzo. E questo dice, capisco che... No, sono un po' scioccato, diciamo, signora, cara... Ma il burka come lo consideri, burka? Cioè, quelli che si coprono anche il volto? Perché non lo fai pure tu? Quello, io, soltanto nella zona di paese, del paesino dove stavo prima, dove vivevo prima in India, ma solo nella zona lì, perché, come qui, un paesino piccolo... Ah, quindi... l'hai messo il burka? Anche sì, solo perché lì è un paese, un paese piccolo come qua a Camposano, solo in quelle e perché non lo metti pure in Italia il burka? Non è escluso. Sì, vabbè, c'è la libertà, quando voglio lo metto. Lo metti pure a Camposano il burka? No, quello no, qui no, perché comunque la gente qui non capirebbe, non capisce, però no? Mi pare che il suo papà è sbagliato il burka, no, come cosa non è sbagliata, no. Si può senti, ma una preghiera, mi pare che suo padre sia un po' disperato, però sì, tuo padre mi sa che hai dato un dolore a tuo padre, non è che lo vuoi convincere a diventare islamico. Sì, mio padre è un po' è dispiaciuto, però io sono sempre stato vicino. Ma non ho capito, lo vuoi convincere a diventare islamico? No, te figurati, barbato islamico, pensate cosa succede lì dentro. È solo Dio che ti fa cambiare idea. Ma tutti dovrebbero diventare islamici, secondo te? Perché c'è questa storia che uno dovrebbe, no, la conversione, di convertire ritorno. Il mondo, no? Sì, vabbè, ognuno è libero. Chi vuole essere cristiano, chi vuole essere, qui in Italia c'è tutto, quindi vabbè, non che è che... L'ideale sarebbe un mondo tutto islamico, però, no? Io non convinco nessuno, non mi... Ma com'è la preghiera? Parlo solo. Com'è la preghiera? Una preghiera tipica, cioè una di quelle che fai? Com'è? Faccio un esempio, così almeno mi rinfresco un po' le idee. Come si fa? La preghiera, che fai? Quando attacchi la preghiera, come fa? Quella della sera. Io, vabbè, leggo il Corano. Tipo, quando leggi il Corano, perché sai l'arabo pure, come fa? Sì, perché hai studiato l'arabo all'università. Come fa? Io sono laureato in giornalismo, non in arabo. Pure. Ma fammi un esempio, della preghiera, così, tanto per capirci. Per esempio, diciamo... Sì. Che significa non c'è altro Dio fuori di Allah. Così e come funziona? Dimmela un po'. Per esempio, le dico tipo una specie di rosario, come si fa 100 volte, certo. 1000 volte, così. Ma come fa? Dimmi un po' come si fa. Quando preghi, come fai? Dico la. Poi? In tonala bene, perché sennò non capisco. Dico. E quanto dura così? 2 secondi la preghiera? Ma che 2 secondi? Vabbè. No, perché poi ci sono anche altre. Ma ti metti proprio là, ma è vero che trascuri un po' i bambini quando preghi? Io prima faccio mangiare, li cambio, li vesto, aspetto prima a loro, poi quando ho finito, ti metti a fare davanti ai cartoni, uno lo mette nella e ti metti a pregare la colletta, un altro invece perché è un po' più grande si sta seduto così, si guarda il cartone e poi io prego. Ma io li guardo sempre, cioè, li guardi sempre, poi c'è una signora che pure li guarda. Ciao Isha, aiuti. Ciao Isha, ciao. La Zanzara, sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. Ragazzi, parliamo un attimo dell'intervento di Carmine. Io credo che per tutti gli ascoltatori della Zanzara la vita si possa dividere in 2 fasi, quella prima dell'intervento di Carmine e quella dopo l'intervento di Carmine. Una roba da tramandare ai nipoti, fare ogni anno la ricorrenza all'anniversario dell'intervento di Carmine. Carmine, sei il numero 1. Carmine da Roma, Un po' mi dispiace. Dai, Carmine. Giuseppe, Giuseppe, siamo massacrati però con questa trasmissione. Parliamo un poco di pelo, un poco di figa, di mignotte. Questo chi è? Un alunno di Zagrebelsky, questo professore? Io sera quando torno a lavorare, Giuseppe, c'è sì, però, chi ho capito. Un alunno del professor Di Colfi, questo qui, chi è questo 40, qua? Però c'è un... Ho cresciuto alla scuola di Angelo Panebianco. Vabbè, ma ho capito, ma lascialo perdere. Io però posso dire una cosa a parente, non è che fa un moralista, cioè io lo voglio bene, lo ascolto da sempre, però dice che siamo animali, che siamo esseri ignobili. No, tu dici che sei, perché tu vai a puttane? Certo. Sempre fisso. È normale. Sempre, una volta al mese. Miserabile. Una volta al mese in Austria, una volta al mese. Certo. Normale. Cioè, qual è? Devo andare in chiesa? Devo andare a pregare? Ragazzi, questa è l'unica trasmissione al mondo in cui si fa passare per normale dicendo anche comportamenti che ovunque hanno un minimo di riprovazione sociale. Ovunque. Però se vi fa comodo così far passare me per un chirichetto, andate a fare in culo. No, non c'è nessun problema. C'è chi va a vedere una mostra di Hayez e chi invece va, ovviamente. Tu vai a vedere le mostre. Chi va alla scuderia del Quirinale? Mi interessa le mostre, giusto? I quadri, Manzoni, Raffaello, Pirandello. Ma che mi interessa? No, Manzoni e Pirandello, però, non hanno esposto quadri. Non mi interessa. No, ma io ti sto dicendo, io ti faccio esempi. A me non mi interessa. A me che apre nei Musei Vaticani a Roma, è 20 anni che sto qui, non ci sono mai andato. Cioè, a me andare a vedere macerie, un Colosseo, 4 muri là, arrivano le macerie, Carmine. La gente arrivano là, le macchine fotografiche, tu vedi tutti la macchina fotografica. Ma che fotografo? Invece è normale andare a Troia sulla Salaria. Vabbè, ma che fotografo? La vita si divide in 2. prima dell'intervento di Carmine e dopo. Avanti Cristo, dopo Cristo. Dici, certo. Certo, AC, ante Christum natum. Ante Carmine, ante Carmine, ante Carmine e dopo Carmine. Cristo, perché tutto, capisci che è una pietra, è definitivo, è un epitaffio alla, capito? Io non ce la faccio, poi continuo a mandare messaggi ogni giorno, Carmine, tu non hai idea, ogni giorno bisognerebbe mandarlo in onda, però non lo voglio, bisognerebbe, non lo voglio sprecare. Andrea da Milano. Ah, perché è una pepita d'oro, beh, assolutamente, è una pepita d'oro. Se non è pepita d'oro quella, che cos'è pepita d'oro? Tutto vero poi, Tutto vero, non c'è niente di falso, cazzo. Questo è il dramma. Andrea, vai, Andrea. Sì, salve, complimenti per la trasmissione innanzitutto, mi hanno chiamato per dire qualcosa di questi biglietti, questa malefica finale, oltretutto tra due squadre spagnole, quindi i prezzi sono andati molto giù per questo motivo. Ma perché vuoi, diciamo, vuoi parlare di biglietti? Sei un esperto? Voglio solo dire sei che un esperto? Mi occupo di sport in genere, trovo scandaloso che dei biglietti che costano 100 euro siano venduti a 1.500-2.000 euro, fino a 5.000. No, però aspetta un attimo, fermati lì. Tu, mi fermo. No, fermati lì, allora, voglio capire una cosa, ma tu sei un esperto di biglietti nel senso che li vendi? No, ma non c'è niente di male, no? No, io non vendo biglietti, io sono esperto, mi occupo di sport, di eventi sportivi. Vabbè, sei un bagarino, dai, su. Sei un... Non sono un bagarino. Ma sì, ma sei un bagarino, non dai. Non ti garantisco di nulla. Sì. Sei un grande, Giuseppe, sei un grande. Ma chi sei? Chi sei? Chi sono? Sono Andrea, te l'ho detto. Andrea, cazzo, ma sei tu! Ma non lo chi sai chi sono io, Ma sì, ma ti riconosco, cazzo. Parla come sai parlare, non questo accento assurdo che hai fatto. Cazzo, no, ma Andrea, adesso ti ho sentito gente. No, ma lo conosco, lo conosco. È uno dei più grandi rivenditori di biglietti, non si può fare non si possono fare cognomi. C'è uno che conosco benissimo, uno dei più grandi rivenditori di biglietti. Ma un bandito praticamente. Ma chi è un bandito? Ma quando mai? No, ma non è vero. Cioè, vende i biglietti, è un banditello. Infatti dai, sei milionario, sei milionario secondo me. Sì, non lo so, ma sei milionario. Io voglio capire una cosa. Adesso, caro mega debiti, no, ma parla. Sì, ma non modificare la voce, però. Fammi la... mia madre è americana, quindi parlo così perché... Ma vai a cagare, dai, no, su. Ti garantisco. Cioè, fatemi capire un secondo. Freno un secondo. Scusate, freno il vostro entusiasmo un secondo. Faccio 40 secondi il punto. 40 secondi il punto. Dunque, aspetta, Cruciani, 40 secondi ci metto. Ora, Cruciani si esalta per Carmine puttaniere che vorrebbe bombardare i musei vaticani, non gli interessa niente, e va a prostitute, e si esalta perché un signore che vende illegalmente fuori dagli stadi, ma no, fuori dagli stadi non lo so da dove, ma assolutamente dei biglietti sì. E la domanda, cari, ma devo dirti, lo sai, come mai questi chiamano tutti, no, qua? Ma tu lo questo sai una cosa, ti devo vero. Confessare una cosa, sì. Estate del 2008, ecco. Io non so chi sia questo Andrea, se è veramente la persona che penso o no, ho cercato di, ho intuito dalla voce che potrebbe essere da un momento del suo intervento, che è una, però non posso dire niente perché non lo voglio mettere in mezzo, con un signore che è uno dei più grandi bagarini italiani, io ho venduto dei biglietti davanti allo stadio con lui. Spieghiamo chi sono i bagarini, però. I bagarini sono quelli che hanno dei biglietti in mano, ecco. e che li rivendono a un prezzo maggiorato per ottenere chiaramente un margine. Io in più occasioni ho venduto, per divertimento ovviamente, e per capire come funziona soprattutto, ho venduto dei biglietti davanti allo stadio. Cioè, mi sono fatto bagarino, caro Parenzo. Forse è una delle cose migliori che hai fatto allora, nella vita Andrea, tua. Allora, adesso io non voglio sapere niente, chi sei, chi non sei, se sei tu, se non sei tu, tanto non me lo dirai. Lei vive nella illegalità. No, ma lascia perdere. Quanto costa andare? Questo è un dato interessante. Sì. Quanto costa se uno vuole andare oggi a vedere la finale di Champions League a Milano sabato? Quanto costa? Diciamo che minimo 800 euro fino a 5.000. Da 800 a 5.000? Sì, fino alla tribuna VIP. E quelli ufficiali, quelli di 5.000, costano 4.000, IVA compresa, perché la UEFA li vende, i cosiddetti ospitali, a 3.000. più IVA, 7.000 più IVA. Questa è la UEFA del tuo buon amico Platini e Blatter. No, io non sono amico né di Platini né di Blatter, me ne sbatte coglioni, per cui non c'è nessun amico. Sei un grande, tu e Cruciani siete due grandi. Ma no, tu non sei, tu sei un amico, ho capito, vabbè. Andrea, io voglio capire una cosa, oggi un biglietto che ha su, prendi un biglietto in mano, di quelli che hai, hai sicuramente dei biglietti in mano, quanto c'è scritto, che c'è scritto sopra? Che 440 è il prezzo ufficiale. Che prezzo è? Di che tribù? è prima categoria. Prima, dunque, la più bassa o la più alta? La migliore. La migliore. Qua, uno oggi ti chiamo, voglio un biglietto di prima categoria. Tu quanto glielo vendi? Io nel mercato li vendo a 2002, 2006, 2005. 2002, 2006, 2005 per un biglietto di 4,40. Sono due finaliste spagnole che tirano giù molti prezzi, i spagnoli non pagano. Se fosse finito in finale il Bayern o il Manchester, come dovevano finire, i prezzi erano due volte tanti, minimo due volte. Cioè, tu stai dicendo abbiamo avuto una sfiga pazzesca, diciamo, no? Cioè... Sotto questo aspetto, sì, cioè l'hanno avuto adesso chi deve andare a finale. Sì, vabbè. Quelli che vendono, i venditori hanno avuto sfiga perché. L'anno scorso con la Juventus in finale e il Barcellona, i biglietti erano 50% più cari. Quest'anno sono due squadre in Madrid, molta gente se ne frega, però c'è i giapponesi, ci sono i russi, ci sono gli arabi. È un evento, è una kermesse dello sport. Però scusa, Andrea, ma questo lo sappiamo, se non ci rompere i coglioni con queste cose generiche. Allora, la cosa fondamentale. Fondamentale è un'altra, Andrea. Uno la tratta male, oggi Milano, in questi giorni, Milano è diventata male. Sostanzialmente la patria dei bagarini di altissimo livello, Parenzo. Non so i soliti che tu pensi, i napoletani che un tempo andavano davanti agli stadi a vendere i biglietti. Qui stiamo parlando di gente che guadagna decine di migliaia di euro durante un evento. Quanto guadagni tu durante un evento come la Champions League, Andrea? Io pagato. Vabbè, dai, su, vabbè, no, non ci raccontare cazzate. Io lavoro con i pacchetti Inclusive Tour, per oltretutto sfortunato perché l'ho vabbè, ma un bagarino oggi quanto può guadagnare oggi? Tutti disgraziati i bagarini, perché guadagnano su un evento, ne perdono su altri 5, quindi sta storia che i bagarini, tutti, se vai a vedere la storia dei bagarini ti rendi conto uno stato di degrado economico incredibile. No, ma quale degrado economico? Ma è vero che si vende, è vero che si possono comprare anche i biglietti della Scala dei bagarini? Sì, ma la Scala è un grosso evento per i bagarini. Un grosso evento. Vabbè, Andrea, adesso c'hai già rotti i coglioni perché non ci vuoi rivelare la tua vera identità. Ciao. Grazie, Riccardo da Modena. Ciao. Dove andiamo? Marco da Modena. Fratello illegale. Ciao. Marco da Modena, vai. Pronto, ciao. Buonasera. Dimmi. Buonasera, Cristiano. Buonasera, Parenzo. No, volevo parlare di, in realtà, una cosa che avete parlato ieri sera, il discorso su quel casting che cercavano un nano, un disabile che esprimesse tenerezza. Però ne parlo oggi perché io raccolgo la frutta, no, adesso, quindi sul carro abbiamo una radio di merda che prende solo due stazioni radio di merda che adesso... Non ho capito, scusami Marco, mi sono distratto un attimo, non ho capito a chi ti riferisci, radio di merda? No, dove lavoro io adesso? Prendono solo due radio, no? Sì. Radio commerciali, sì. E tutti oggi, cioè ripetutamente ogni ora, parlavano del discorso su quel casting di quel nano, della ricerca, sì, del nano, sì, del sì, disabile. Ne abbiamo parlato ieri, oggi in realtà abbiamo un po' trascurato questa roba qui perché hanno cacciato praticamente la tizia che ha scritto una vergogna pazzesca, una cosa ridicola, è stata licenziata in tronco perché ha fatto il suo mestiere, il suo lavoro, no, cioè che era quello di trovare delle figure adatte a quello che dovevano fare, perché cioè, devi leggere tutto l'annuncio completo. Adesso non voglio essere ridondante, ma lì gli chiedevano anche ragazzi di immigrati di una certa particolare gruppo, l'età, uomini, donne, e tra questi serviva anche un ragazzo. Vabbè, allora Marco, non ho capito che... No, il fatto, finisco, la faccio breve, e in radio parlavano continuamente di sta cazzata, no? E sul fatto che addirittura c'è un DJ radiofonico famoso, si è addirittura compiaciuto del fatto che questa poveretta fosse stata licenziata. Ma chi era questo qua? Chi? Non si può dire, dai. Chi era sto DJ? Ma che cazzo me ne frega? Dimmi, chi è? Ma era 102.5. Su 102.5 c'è qualcuno, chi è? Mio amico Proce, chi era? No, non mi ricordo chi era, se non mi dice, non li so, prende solo quella a lavorare, l'ascolta tutto il giorno e ha parlato 102.5 di... allora io ho trovato... Però il problema, uno può essere compiaciuto perché non pensi, anch'io ieri per un attimo ho pensato che fosse una cazzata questa roba qui, poi invece ho capito che non era affatto una cazzata. Ragionare. Sì, è vero, hai ragione, mi hai portato a dire, tu poi sei più, come al solito, dici no, però qua su giù... No, io ti ho in questo caso ti ho sorpreso perché tu pensavi io dicessi vergogna. Allora, no. Questa ragazza qui che è stata licenziata, questa professionista, che è una grande professionista, ha fatto che io conosco il suo peraltro. Mestiere, gli hanno, bravo, detto cerca un nano o una persona con handicap, esatto, che trasmetta tenerezza, e quella ha fatto, esatto, quello che doveva fare. No, cioè, che non cosa ha offeso pensate? Una categoria. Cosa pensate? Come vengono scelte le persone nei casting? Così, con lo Spirito Santo, vengono scelte proprio così, giusto Marco? Esattamente, sì, no, più che altro a me, io ho trovato più vergognoso delle due. E secondo me è più offensivo verso i disabili, tipo è più offensivo il buonismo verso i disabili. Cioè, io ho trovato solo del buonismo oggi nella trasmissione, che dicevano sì, perché uno si offende il buon gusto. E cazzo, in realtà, trattare un disabile da persona normale. Sì, una persona proprio, che può trasmettere tenerezza, discorso, e invece no? Che può non trasmettere. È chiaro che se devi scegliere due attori, che ne so, tra Parenzo, tra un attore considerato buonista e un altro magari con la faccia più da truce, no? Non so, Giannini. Scegli quello che è più adatto a quello che vuoi fare. E la stessa cosa dice: cerco un disabile che trasmetta tenerezza, non uno che magari ha la faccia un po' più truce. Ma come è normale con le persone non disabili? Ragazzi, fermi lì. La Fiorentina di Seitan è come andare al bordello e non trombare. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Ci stiamo avvicinando a quella che è l'apocalisse definitiva. Io vi faccio notare una cosa. Il Papa ha fatto partire il Giubileo, ha aperto la Porta Santa ufficialmente alle ore 11:11. Allora, se voi andate a vedere, e ve l'ho già detto in parecchi video, il numero 11 è il numero apocalittico per eccellenza. State sentendo il faraone nero. Faraone nero. Un signore che si fa chiamare così, che si chiama in realtà Andrea Sorbi, se non sbaglio. Andrea Sorbi. Io una telefonatina a questo Sorbi. Sì, però aspetta solo un secondo, guarda, ti prego. Va bene, fai la telefonatina. La posso fare. Tu però non ti innervosire subito. No, io mi sto già innervosendo. Uno si chiama Faraone Nero. No, cioè, già questo mi manda il siccome l'hanno segnalato da tempo ormai diversi ascoltatori. E ti segnalo che questo è l'orario oggi in cui, mi sono finita deciso. L'assemblea di Confindustria, il presidente e tutti gli altri salgono nella loro macchina, fanno ritorno a casa, il dottor Boccio e tutto il grande staff, e diranno: oh, vediamo che cosa la nostra radio propone, la radio degli industriali. Sì. Ecco, quindi do questa fammi chiamare, però sennò si fa tardi. Fammi chiamare, dai, fammi chiamare. Faraone? Sì. Andrea? Sì. Come devo chiamarti? Sono Cruciani, ciao. Ciao, salve. Ma perché questo nome, Faraone Nero? Faraone Nero perché secondo tutti gli antichi testi egizi rappresenta la reincarnazione di un faraone, sì. Il colore era nero, sì. Si può dimostrare perché ci sono delle cose che possono essere dimostrate tranquillamente. Cioè tu sei la reincarnazione, di un faraone? Una divinità. Chiamata Faraone Nero? Mancava questo qui. No, è il dio Amon Ra. E faraone, chi sarebbe Amon Ra? Sarebbe quello che viene considerato il signore degli dei in persona, Sorbi vuol dire signore manifestato per la seconda volta sotto forma umana. E dunque? Che tanto da discutere, perché ricordatevi che la Chiesa Cattolica sta raccontando un mare di uno dei 12 apostoli, quello vissuto 66 anni dall'anno 6 all'anno 60 dopo Cristo. Perché tu sei esperto di numerologia, se non sbaglio, no? Esperto. Siamo il maggiore esperto, come si può dire, mondiale? Diciamo che sono tra i più qualificati. Ecco, ma la tua data di nascita coincide con qualche cosa? Sì, è la data di nascita di Gesù Cristo, quella vera. Quella 19, vera. 1967. A livello faraonico è la esatta data di regno di Ramsete II. Ah, ecco, ho capito tutto. Sì, la prima dinastia, quindi famoso per la battaglia di Megiddo, quindi la battaglia di Armageddon. Ed è il motivo per cui tu praticamente, ecco, volevo capire, è il motivo per cui si arriva al faraone nero, questa è la sostanza. Sì. Benissimo. Aspetta. Vabbè. Aspetta, allora, tu non hai potere di prevedere il futuro, se non sbaglio, no? Giusto, Farao? Ma riesci a prevedere che io tra un po' vi mando a fare il culo oppure no? Riuscite a prevedere questo oppure no? Vai. Ma io guardi, se vuole mandare a fare il culo, faccia pure, liberissimo di farlo. No, se riesci a prevederlo, caro, a parte il collega, scusi, sono Parenzo, il collega che continua a chiamarla Faraone Nero. Ma scusa, se si chiama Faraone Nero, Andrea Sorbi. Il faraone nero. Allora, il nome Andrea Allora, il nome è Andrea. Sì. Senta, si reincarni, si reincarni. È agente del Mossad che... Perché dietro l'ISIS ci sarebbe... Che cosa c'è allora? La lobby ebraica? Che c'è dietro l'ISIS? Mamma mia. Ah, certo, l'ebraismo dovrebbe essere l'ultima religione che dovrebbe restare. Nella realtà dovrebbe restare la religione dell'amore, che è quella vera. Questo in generale. Vi siete domandati come mai il Papa, per esempio, si è fatto promotore della richiesta del sacerdozio alle donne? E perché? Io l'ho detto qualche video fa. Sì. E che... sapete che il Papa, tempo fa, ce l'ha detto avuta con me. Beh, no, con lei direttamente, no, non credo. Novembre, 11 novembre dell'anno scorso, che il signor Papa Francesco ha detto che non si può parlare di poveri di senza tetto ed essere un faraone. No, però non si fa un riferimento chiarissimo. Non, ma non era un riferimento. No, non può. Non sa chi è lei il Papa! Non ne conosce per sua fortuna l'esistenza. Allora, Papa in sanscrito vuol dire male, maligno, malvagio. Però... usa tutta la numerologia del 666. Sta nella Domo 60 Marta al numero 201. E beh? 201. Allora, Santa Marta a Roma si festeggia il 19 gennaio. E Santa Marta fu martirizzata insieme a San Mario, a Sant'Abaco, al Santo di Fascia e alla Rotonda Sant'Andrea. Quindi si sa cos'è questo. Il numero 5? Andrea, sa cos'è 19, il numero 1. Il numero 5, ma sai cos'è il numero 5? Che lo stesso detto, un numero divisibile per 3, 201, 2 più 0 più 1, quindi è 3 a 67. Si segni questo nome, 67. Andrea, sa cos'è il numero... il cognome Sorbi, 19-1, 67, e ne ha trovato il signore in persona. Sì, ho capito, il numero 5, sa cos'è il numero 5? Il numero 5, sa cos'è? 5 parole, vada a fare in culo! 5 parole. A lei tutta la sua famiglia. Scusa, Faraò, ma io ho capito, Bergoglio, come lo giudichi tu? No, Bergoglio. Ma io lo giudico piuttosto finto. Ah, finto. Lui, il Papa, Se sto... il Papa, il Papa, cioè, il Faraone finto, nero. Che... ma questo è matto. Perché il Papa non viene mai messo dalla Chiesa per caso. Domandiamoci come mai Ratzinger è stato fatto dimettere. Ma come lo consideri tu come personaggio, Bergoglio? Dammi il tuo parere. Infido. Vabbè, ma perché? C'è un motivo. Qual è il motivo? Allora, glielo dico subito il motivo. L'Andro Iorio e Francisco Jalix. Spieghi la sorte di queste due persone. Chi sono? Vescovo di Buenos Aires. Chi sono queste persone? Sono due persone fatte imprigionare da questo Papa all'epoca, furono fatte arrestare. Ma di chi si occupa? All'epoca del regime di Videla. Ah, perché lui dice ma lei di cosa? Della vita normale, quando esce di casa la mattina, porca puttana, di che cosa si occupa? Faraone, oltre... di che si occupa? Cosa fai di mestiere, Faraone? Della vita. Elettrodomestici. Ripara elettrodomestici. Cessi deve riparare lei. Cessi deve riparare, Faraone. Questo è la cosa anche nobile. È giusto. Ma non ho capito perché non può riparare elettrodomestici. Ma no, perché io non lo chiamerei mai a casa. Lo chiami a casa e dici: scusi, mi puoi riparare elettrodomestici? No, 4 più 2, 9, 5, 8, 42. E i numeri, i numeri cosa dicono di Renzi? Detto, i numeri dicono che numero 42. No, ma i numeri cosa dicono di Renzi? I numeri cosa dicono di Renzi, per esempio? I numeri. Matteo Renzi, allora, MR. Matteo Renzi in Egizio e sono il 9 e l'11esimo geroglifico, quindi ha a che fare con l'11 settembre. Dunque? I primi due aerei che colpiscono le Torri Gemelle, quindi formavano il numero 11, sono l'American Airlines numero 11, il Western Airlines, se non ricordo male, numero 175. Dunque? Basta fare 11, 5 e trovate la data di Matteo Renzi. E dunque? Quindi sono gli stessi che hanno buttato giù le Torri Gemelle. Che 4 più 2 quanto fa? 8 più 2 fa 7 e diviso, quindi un numero che fa 7 è 66. Sì. Ma che vuol dire? Che vuol dire che Renzi è legato all'11 settembre? Non ho capito. Questa persona qui è stata messa lì dalle stesse persone che hanno buttato giù le Torri Gemelle. Vabbè, ho capito, ragazzi. No, non ho capito, ma non un'ambulanza, buttate via la chiave. Ma Renzi, quando cade allora? Secondo quello che dicono i numeri, quando cade? A breve, è finto. Non è eletto dal popolo. Pure lui, vabbè, questo lo sappiamo però, che non è eletto dal popolo, cioè non è che ce lo deve dire lei. Il faraone nero. Come si chiama una persona che non viene eletta dal popolo? Come si chiama? È una persona imposta, quindi potrebbe essere anche un dittatore. A presto, faraone, arrivederci. Arrivederci, signor Cruciani. Mi mandi cordialmente a quel paese la persona che ha lì accanto, che è molto simpatica. È fine come una palatina di merda. Ma vada a fare il culo. Altrettanto lei e famiglia. Asking me. Claudio da Milano, vai Claudio. Cruci, però adesso dopo il Papa come faccio a parlare di sesso? Io volevo tornare sul sesso. Vai, dimmi, che il faraone nero sarà esperto pure di sesso. Faraone nero, si può fare una parentesi sul sesso, sì. Vai, dimmi, dai, Claudio, lo sai che si può intervenire su qualsiasi cosa, dai. E allora voglio sapere se tu o Parenzo, che saluto, sapete cosa sono le ghiandole di schiene? Le ghiandole? Di schiene. No, le ghiandole di schiene, non sappiamo, che cos'è? È il nuovo MAS, non c'è più il punto G, ormai c'è la ricerca delle ghiandole di schiene. Che cosa sono queste ghiandole di schiene? Cos'è? Chi è che ride lì sotto? Non lo so. La mia compagna. Che ha le ghiandole di schiene. Ma cosa sono queste ghiandole di schiene? Una coppia di maiale. Sono quelle che fanno squirtare. Vabbè, d'accordo. Ma adesso perché ci vuoi mandare? Ma che mestiere fai tu, Claudio? Sono primario. Non so, sono medico, primario urologo. Cioè, sei primario urologo come io sono Einstein. Cioè, come ho dei dubbi. Vedi tu. Sei primario urologo dove? A Milano. A Milano, Claudio, come si chiama lei, cognome? Dottor? Parenzo, c'è un po' di privacy, no? Ma quale privacy? Dottor Claudio, sto cercando, guardi. Dottor Claudio? Urologo, primario. Ma comunque non c'è niente di strano. Chiami alla Zanzara per dirci che le ghiandole di schiene provocano lo squirting nella donna. Capirai. Sono quelle che provocano lo squirt, è un po' non parli di squirt. Ma no, veramente ne abbiamo parlato una o due volte in tanti anni. Vabbè, ho capito, Claudio, se vuoi facciamo una sessione alla Zanzara parlando di squirting, ma tu perché ci hai parlato? Siccome verso quest'ora tu parli sempre di sesso, volevo dirti... Che le ghiandole di schiene sono quelle che provocano l'eiaculazione femminile, sì. Ci ha risollevato la giornata. Bene, grazie Claudio. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, niente. Passami la tua compagna. È qua che sente. Passamela un attimo, dai. Eccoci qua. Ciao. Ti ho anche scritto una volta. Ciao, come ti chiami? Paola. Come? Paola, ma tu squirti? Da morire, pazzesco. Veramente? Ma che coppia è? Ma siete mica tu comunque non hai gente. Iacuri a pioggia proprio, così. Io mi sono vergognata tutta la vita e adesso non mi sono vergognata più. Ma quanti anni hai? Scusa, io ho 49 anni. Per tutta la vita ti sei vergognata di questa cosa. Sì. Invece adesso basta. Adesso ho trovato questa persona che mi ha illuminato. Totale. Ti ha fatto capire che non è una cosa di cui vergognarsi, giusto? Esatto. È un tema molto interessante. L'ho riportato a una come dire, ho scritto una volta, se volevi, sì. Ti ho mandato un messaggio WhatsApp dicendo quando vuoi trattare l'argomento ci sentiamo in diretta, rendi conto? Paola sta dicendo che Claudio gli ha praticamente salvato. Ci rendiamo salvato conto, ragazzi, esatto. Belli di come è degenerata la situazione. Ma ci perché è degenerato? Assolutamente. Ma tu conoscevi le ghiandole di schiene? No, io che sono ti vergognavi di questa cosa, ti vergognavi. Esatto, preoccupata dicendo perché mi succede questo, e questo mi ha spiegato che tutte le donne ce le hanno e poche donne le sanno, cioè si sviluppano poche donne. Ma perché ne parleremo in maniera piuttosto diffusa nei prossimi giorni. Grazie Claudio, grazie Paola, com'è che ti chiami? Ciao. Però Parenzo mi sembra sempre un po' refrattare. A domani, sì, lo so, ma ne parleremo, hai ragione tu Claudio, è un argomento molto importante, a domani. Pronto il telefono amico? È la Zanzara? Vabbè, è uguale, dai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.